su su, 300.000 stelle, la vita e la morte, quattro sono sempre quelle, il cazzo vola in basso, si toccano con la mano, ma cazzo fanno dove? Noi non ce lo chiediamo, noi non ce lo chiediamo, ci vogliamo divertire, tanti tanti giovani ma senza una. Girare la ruota, comprare una vocale.